Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ai miei vicini di casa piace molto il karaoke, soprattutto nelle ore notturne, quindi, come potete vedere, non posso dormire. Voi non penso riusciate a sentirlo, però stanno dandoci dentro col karaoke e si stanno divertendo sti stronzi con Minoretano e tante altre cosine. Sono stonati, ma non me ne fotte un cazzo. Sono le 11 di sera di un giovedì. Cioè, sto registrando. Cosa cazzo fai il karaoke a quest'ora? Il vicino di casa, se preso e strapolato da ogni contesto, da ogni tradizione, da ogni storia, è una persona fastidiosa. Non è giusto che sia così, non è sempre stato così, anzi ci sono stati momenti in cui, per come erano strutturate le case, i primi palazzi dell'inurbamento, il vicino di casa è una grande risorsa. Il vicino era comunque quella sorta di supporto quando mancava qualcosa, c'era un bambino da appoggiare, un anziano da sorvegliare, un pacco di sale da comprare, un sugo da scaldare quando finiva il gas, cose del genere. Questo accadeva, ma accadeva in un mondo arcaico. Oggi le case sono rimaste sempre le stesse, ma i vicini non si incontrano più, anzi i vicini sono persone che si guardano solitamente in cagnesco, si ignorano, dei quali sappiamo tutto e dei quali noi guardiamo dallo spioncino del nostro portone per cogliere ogni palpito, ogni uscita dalla regola. E poi, il Red Razione, ma in quelle orribili guerre intestine che si fanno, che si chiamano riunioni di condominio. Questo è paradossale perché è stato fatto recentemente un sondaggio online su un campione di 1800 italiani e si è visto proprio così. Il vicino comunque è un essere che noi guardiamo sempre con disprezzo, con dispiacere. Perché? Perché probabilmente ha qualcosa che noi non abbiamo o limita in qualche maniera la nostra illimitato desiderio di espansione. Il vicino ormai lo ascoltiamo dietro le pareti di casa. Oggi abbiamo strumenti di riproduzione, ciò che accade a casa del vicino, quindi non è soltanto l'orecchiare delle nostre zie, delle nostre nonne per sapere i fatti degli altri, ma riprodurre e rimettere in rete. Su YouTube c'è un filone di registrazioni di rumori, di singulti, di sospiri, di musiche, di intemperanze ogni tipo dei vicini di casa. Quindi il nostro tempo lo passiamo nello spionaggio molesto delle molestie del nostro vicino di casa. E poi il paradosso. Il paradosso è che alcune città italiane, soprattutto Milano, che ha il record per questo, hanno inaugurato lo strumento 2.0 del social street. Sono le strade rappresentate attraverso un gruppo di Facebook. Tutte le persone che abitano nella vostra via partecipano a un gruppo di Facebook, quindi stiamo tutto il giorno a scambiarci di quanto è sporco quel cassonetto, di quanto è caduto il ramo di quell'albero, di quanto ci sia un problema del quale bisogna avvertire il municipio e via dicendo. Organizziamo delle scampagnate nei giardinetti con i bambini, organizziamo delle pipì collettive con i nostri cani, però naturalmente sempre con i vicini tenuti a distanza. Ecco, sapete oggi rappresentarmi dal vostro punto di vista qual è l'esatta cognizione che avete dei vostri vicini di casa? Li guardate, non li guardate, ne sentite l'odore nell'ascensore, sentite l'odore del sacchetto della spazzatura che portano loro la mattina, e oltre a maledirli pensate, immaginate cosa loro possano mangiare. Qual è la vostra percezione del vostro vicino di casa? Vicino di casa si abitiate in un grosso palazzo, se è una villetta bifamiliare, monofamiliare, se siete fortunati che abitate una bella casetta in campagna, al mare, in montagna e state soli, questa mattina ascoltateci, è inutile che chiamate. 800 24 0024. Melog. Cronache meridiane. È da uno che stiamo sentendo. Zitto, abbassa la voce. Che stiamo sentendo nella stanza dei vicini, sempre un rumore. Cazzo, cioè, adesso è strano. Da un'ora che lo stanno facendo. È da un'ora che stiamo sentendo. Aspetta, abbassa la voce. Aspetta. No, senti. Ah. Povera signora, ma non siamo noi soltanto che la mandiamo per radio, ormai è affidata a YouTube, non sappiamo dove, in quale latitudine, in quale condominio, a quale piano, in quale interno, in quale appartamento. Però sappia che i suoi vicini, quando lei dice sì, no, ancora, che bello, come è lecito che una persona faccia a casa sua, questi infamoni la registrano e poi la mettono su YouTube. Ecco, questa è l'essenza del nostro vicinato. Questo è quello che noi oggi dobbiamo aspettarci da chi sonnecchia e veglia al di là del fondello che ci separa dall'appartamento accanto. Ma esisteva veramente un periodo felice in cui ci si aiutava tutti con i vicini di casa? Signora, i carciofi ne vuole uno, lei le zucchine me ne dia una, signora mi serve un po' di sale, ma si figuri, le do anche lo zucchero, signora c'ho il pupo, me lo tiene lei, ma certo, non chiedo di meglio, signora mi cambia il nonnetto, sicuro, non chiedo di meglio, ho i cani, li posso lasciare a lei, mi innaffia le piante, le lascio le chiavi sulla porta. Ecco, c'è un'idea di un periodo felice, un'era idilliaca che raccontano, di cui raccontano i nonni, gli zii, le mamme, in cui tutti lasciavamo la chiave sulla porta di casa e ci si voleva tutti bene. Siete convinti che esistesse veramente questo tempo, sia mai esistito? Non lo so. Sta di fatto che oggi i vicini vengono ricordati per il fastidio che ci dà la loro presenza. Spero che i vicini di casa che mi ascoltano in questo momento non pensino che è rivolta a loro. Io sto ragionando in senso lato, anche perché una volta, tanti anni fa, mi denunciò un vicino di casa, perché la mattina del primo dell'anno descrissi l'odore che veniva dal suo terrazzino. Ero in un'altra casa, un altro appartamento, nessuno si sentiva coinvolto. E quindi si sentì oltraggiato del fatto che io pensassi che avesse fatto bisboccia la notte, fece scrivere a un avvocato. Davide, buongiorno. Buongiorno, sì. No, volevo dare appunto il mio piccolo giudizio. Io sono un condominio in campagna, un contesto un po' particolare perché proprio lungo un fiume con le spalle del condominio al bosco. Beh, più facile fino a smaltire il cadavere del vicino una volta che l'ha eliminato. Sì, in effetti sì, sicuramente, insomma, ci sono lupi anche, quindi ti danno anche una mano. Comunque, no, ecco, con i miei vicini, nonostante il gran silenzio della zona, l'unico problema sono io, perché io ho due bimbi piccoli, quindi siamo stati a volte richiamati dai vicini, però... Scusi, ma i bambini cosa fa? Deve silenziare i bambini? Qual è il problema? Ma sa, c'è chi dà fastidio ai bambini, perché casomai non ne ha, e quindi più che altro dà fastidio le cene, che a casa mia sono abbastanza frequenti. Beh, con altri, viva amici, la faccia, con altri bambini. Ci sarà un po' d'allegria finalmente. Lo so, infatti chi viene da noi a trovarci dice: ma questo condominio ci abitate solo voi o c'è il coprifuoco e voi non lo rispettate? Mi descriva, diciamo, coloro che nell'ombra tramano, ascoltano e mandano maledizioni. Chi sono i suoi vicini? Ma allora, sono due vicini senza figli, con due cani. E lei è milanese e dalle nostre parti milanesi non sono, diciamo, ben visti. Vabbè, adesso non facciamo generalizzazioni. No, comunque sì. Lui è genovese, però sono delle bravissime persone, ma il fatto che evidentemente non abbiano figli e lei è casalinga, cose di questo genere, sta sempre a casa, ci sono state lamentele per... Ma no, più che lamentele è stato apprezzamento. Ma guarda chi c'è, ma ti sento ridere per le scale, ma guarda come sei bellino, ma ti sento sì, questa è la tipica frase arcigna. Sì. Quanto che bella vocina c'ha questo bambino. Sì, ecco, già visto, ecco, sì. Tanti anni fa, ma già visto. Cose di questo genere qui. Oppure, a che ora la fate la doccia a questi bambini la sera? Cose di questo genere. Ma i cani loro non vi danno fastidio a voi? I cani loro sono piccoli, abbaiano raramente. È l'odore, casomai. Si puzzano un po', sì. I cani negli appartamenti sì, nell'ascensore si fanno sentire in questi giorni che piove, casomai, sì. No? La puzza però di pelo di cane bagnato, diciamo... A me non piace. Beh, sì, non è proprio la cosa che fa venire appetito. No, infatti. E non potete dire che bel cagnettino, quanto sei carino, con quel peletto bagnato. Sì, infatti qualche volta sì, ma diciamo che mi manca un po' la battuta. Insomma, non mi piace creare attrici. Comunque, lei è fortunato, Davide. In fondo ce n'ha soltanto due vicino e state, penso, in... No, ne ho altri, però gli altri sono... Gli altri sono buoni. Grazie, sono tranquillissimi. Sì, allora, sì, fermo Davide, resta in ascolto perché c'è Filippo, 800240024. Cominciamo a enumerare le ragioni per cui il vicino di casa, per vedere se confermiamo questa inchiesta online, è oggi considerato soltanto come elemento di fastidio. Filippo, buongiorno. Buongiorno. Allora, il mio è il problema inverso. Allora, abito in città e ho un vicino che ha un cane che abbaia spesso e con voce tonante, soprattutto quando il vicino non è in casa. E se il vicino poi ha voglia di fare vita notturna, il cane va avanti fino alle una di notte, alle due di notte, fin quando tornano, poi basta. E poi siamo vicini ad una chiesa e ogni volta che c'è lo scampanio, probabilmente perché al cane quei suoni danno fastidio, ululati a non finire, ma di questo insomma le campane finiscono alle 10 di sera, è la cosa sopportabile, è meno sopportabile la parte notturna della cosa. Diciamo, lei entra in una sorta di circolo vizioso, un loop diabolico, suona le campane, il cane sicuramente indemoniato comincia a ululare, perché esatto. in lui c'è, diciamo, Plutone nascosto dentro, quindi il cane indemoniato e le campane già la mettono abbastanza sul chi va là. Ma quando tornano i vicini, lei non può segnalare questo fatto che loro assenza? L'abbiamo fatto, che dicono? Io, ma il cane non abbaia, perché quando siamo noi non abbaia. E perché non lo registrate? Lo abbiamo fatto, ma è così, e non c'è presso, no, è un interlocutore a senso unico, ecco. Non avete pensato, diciamo, una controffensiva, stereo a tutto volume anche voi quando ci sono loro? Ma sa che non riusciamo ad arrivare ai loro decibel, quindi non è difficile. Beh, oggi sono apparecchi che fanno miracoli, se vuole, guardi. Certo, sicuramente, però... lei creda che non riusciamo ad arrivare allo stesso livello di chiasso o di fastidio, e poi anche non saremmo capaci, ecco. Quindi, purtroppo siamo... E quindi qual è l'alternativa? Cambiare casa? Sì, stiamo pensando anche a questo. Questo è un dato importante. Quando il vicino diventa un motivo sufficiente per cambiare casa. Una cosa drastica, cambiare casa, una cosa almeno per noi italiani che siamo abituati a essere stanziali, è qualcosa di traumatico. Però ci sono delle situazioni in cui probabilmente un vicino molesto ci fa passare la voglia di vivere in quell'appartamento e cambiamo casa. Maria, buongiorno. Salve, ciao, buongiorno. Sto ascoltando la sua dolorosa storia di cattivo vicinato. Allora, io volevo non tanto parlare di cattivo vicinato, perché diciamo questa esperienza ce l'ho, ma relativamente, invece volevo parlare del buon vicinato, perché io vengo da un'esperienza in cui, diciamo, nel condominio in cui abitavo ci si scambiava tutto ed era una festa bellissima ogni onomastico, c'era la tradizione. Ma dov'era questo posto? A Napoli, in centro storico, per diciamo... i vicini di casa, ma non soltanto quelli del pianerottolo, anche quelli dei piani, diciamo, diversi, ci si scambiava il vassoio con la cioccolata calda e i biscotti, perché era tradizione che all'onomastico, diciamo, si offrisse questa cosa. E casa a casa si portava questo vassoio. E se uno non voleva avere rotture di scatole a casa, che venisse la signora con la cioccolata fumante, che fa anche un po' senso. Sapevamo che c'era Sant'Antonio, c'erano tre Sant'Antonio nella scala, e quindi aspettavamo tre vassoi. Beh, io lo vedo come un incubo, però se lei questa cosa dava piacere. No, assolutamente. Guardi, non era un incubo, devo dire. Poi da adulta ho avuto l'esperienza... Ma questa cosa avveniva prima, tanti anni fa. Però anche nel condominio fino all'anno scorso. Natale in casa Cupiello, sì. Passato. Natale in casa Cupiello, però senza ironia, per carità. No. Era una cosa bellissima, tra l'altro. E c'erano rapporti molto belli. Nel condominio dove ho abitato fino all'anno scorso a Napoli, in centro storico, c'era più o meno la stessa situazione. Nonostante erano tutti professionisti e nessuno si infastidiva. Ma anche con la cioccolata, anche lì, cioccolata e biscotti, anche lì. Non c'era più la cioccolata perché c'era meno tempo, però ci stava una bella, diciamo, un bello scambio di cose buone cucinate. Se si sentiva l'odore nel cortile, e le parlo di un palazzo anche, diciamo, di un certo tono, se si sentiva un buon odore, ci si sentiva in obbligo a quello che chiedeva. Adesso ho cambiato condominio, quindi per questo parlavo. Cioè lei sentiva il soffritto e andava a bussare, mi fa inzuppare il pane nel sughetto. Di fronte a casa mia abitava un pubblico ministero, le chiedevo che stava cucinando e lei mi mandava subito il ragazzino con... lei si informava? Io sì, mi informavo. Beh, scusi, però è un'irruzione nella privatezza. Io sto cucinando. Guardi, butto sul fuoco la mia fettina squallida, olio e sale. E bussa uno e dice: che fai di buono? Gioco col tovagliolo addosso. Esattamente. C'è una... A me non riuscirei a vivere in un incubo del genere. A parte, a me fa un po' senso uno che mi porta la teglia con le cose da mangiare. Non so che ci mettono dentro. Che voglio dire, evidentemente, diciamo, viene da altre tradizioni. Sì, sì. Non era un... Vabbè, lei le piaceva, signora. No, ma adesso mi manca nel condominio in cui vivo. Beh, sa, non è molto facile, sinceramente, trovare persone che accettino o apprezzo qualcuno che gli bussa e dice: cosa c'hai di buono, sento un odorino. Cioè, uno dice: ma cioè, chiama i carabinieri. Comunque, ma lei ci ha dato uno squarcio comunque di un vicinato che fu. La famosa nostalgia di una tradizione perduta è proprio questa. I vicini che bussavano con la teglia, con le cozze, le patate, aprivano: guarda che buona, tieni, e gli spaghetti, tutte queste cose qua, come l'iconografia più classica ci insegna. Luca, buongiorno. Buongiorno, mi senti? Sì, la sento. Sì, ben trovato. Ma guarda, io ho ascoltato l'incipit che hai fatto tu e un po' mi si è stretto il cuore, quindi... Sono cose che fanno male anche a me, però bisogna dirle. E quindi in realtà io faccio un passo indietro nel tempo e ti racconto quello che succedeva 30 anni fa, quando ero piccino. Dove? In che città? In quale città? Io sono di Roma e dicevamo che era il mitico terzo piano di Medaglie d'Oro, perché eravamo quattro porte e quattro famiglie, noi eravamo in quattro... Io sono del 72, quindi ti racconto di fine anni 70, primi anni 80, e poi c'era l'interno 11, poi c'era l'interno 10, che erano in 5, c'era anche la nonna, che era una mia nonna aggiunta, poi c'era l'interno 12, un'altra coppia anziana con un figlio, e poi c'era l'interno 13. E io ricordo esattamente che il giovedì la nonna Bice bussava e ci portava la sua mitica pasta ceci. Quando ero malato, mia mamma mi doveva lasciare a casa perché non potevo andare a scuola, le chiavi erano lasciate a nonna Bice, così magari alle 10:30 del mattino veniva a controllare come stavo. Io stavo nel lettone e leggevo Braccio di Ferro in attesa che passasse la febbre. E quando poi è morta l'altra vicina, è morto il marito dell'altra vicina, lei è rimasta da sola, lei era un'insegnante di latino, quindi io già andavo a fare da lei le mie lezioni di latino e quell'anno presi 7. Ma poi mi chiese la cortesia se potevo andare a dormire da lei affinché non fosse sola. E io dormivo da lei, innaffiavamo poi le piante quando partivano per Pescara. È interessante quello che dice Giuseppe, perché è l'ultima sfumata lenta di quello che poteva essere un humus sociale nei primissimi anni del dopoguerra, che ancora c'era un piede in un'altra epoca, un altro secolo, un'altra concezione. Poi tutti gli appartamenti, che tu sai benissimo, in quel quartiere conosco bene, che è limitrofo a dove abito io, oggi lentamente, man mano che gli anziani scompaiono, poi vengono ristrutturati, sfondati, buttati giù i fondelli, fatti dei grandi loft, diventano queste case impossibili, poi crollano come è accaduto sopra il Teatro Olimpico, cascano per la forza di ristrutturare e cambiare, case che erano strutturate e pensate per questa vita quasi in comune, improvvisamente diventano tanti loft, tanti grandi stanzoni dove la gente riceve o fa i loro studi, i loro uffici, naturalmente poi implodono le case, implode la socialità e implode anche la struttura architettonica. Ci sentiamo fra un istante. 800 24 00 24, descrivete il vostro vicinato. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Dei miei vicini serial killer, cioè sono una famiglia di tre, tipo padre, madre, figlio trentenne che vive a casa, informatico, e tipo loro d'estate si siedono sul balcone, senza televisione, senza libri, senza giornali, stanno seduti, zitti, a guardarsi, immobili. Chiudono sempre le porte a chiave, ma a questi livelli, che se uno è nel giardino davanti, se uno è nei 3 metri quadri davanti a sistemare il giardino, che è maniacalmente tenuto ovviamente, e la moglie è in casa, quando lui esce chiude a chiave la porta, poi rientra, apre la chiave la porta, richiude la porta e la richiude a chiave. Ovviamente, cioè, la casa sembra una sala operatoria, non si parlano mai, il figlio come unico passatempo ha gli uccellini, si parlano solo... 800 24 00 24, stiamo cercando di capire come mai siamo sospesi fra un passato idilliaco che ancora nella memoria di qualche ascoltatore c'è, di buon vicinato in cui c'erano le nonne, le zie, i parenti, gli amici di pianerottolo sui quali si poteva contare, erano sempre disponibili, casa tua era casa loro e viceversa, e l'incomunicabilità totale che c'è oggi, in cui sono cambiate le case, si sono ripopolati gli appartamenti perché i vecchi inquilini non ci sono più, se ne sono andati, sono morti, sono scomparsi, hanno cambiato città e via dicendo, e improvvisamente il vicino diventa un nemico, qualcuno da guatare, da scrutare, da osservare, da spiare, per sottolinearne le diversità. E l'esito di tutto questo poi diventano dei video su YouTube. E d'altra parte esistono quelli che invece si organizzano, sì, con delle sorta di aggregazioni condominiali, le social street, ma in realtà sono dei gruppi Facebook del condominio o della strada dove si vive, in cui si fanno delle iniziative, ma sempre online, sempre a distanza, sempre mandandosi foto, sempre mettendosi dei like, sempre mettendo dei post, ma in realtà vedersi in faccia ci si vede poco volentieri, ci si vede soltanto alla riunione di condominio, dove ci si vede naturalmente per litigare come animali. Francesca, buongiorno. Francesca è morta. Silvio, buongiorno. Buongiorno, io sono Silvio da Novara. Dunque, il vicino nemico è nemico perché non si conosce, perché con il fatto dell'ascensore, tutti viaggiamo in ascensore e difficilmente ci incontriamo in ascensore e basta. Mentre invece... No, una qualche volta capita ci si incontra in ascensore. Poche volte, però. Mentre invece una volta, quando non c'erano gli ascensori, c'erano le scale... Vabbè, ma lei sta parlando dell'anteguerra, ma prima ancora... No. Post-risorgimento. Il mio ascensore è del 1910, c'è già l'ascensore. Sì, d'accordo. Però c'è un fatto... con l'evento degli ascensori la gente non ci si incontra più. Allora, chi è dotato di un sociale che tende ad avvicinare le persone, cioè una socialità, un istinto alla socialità, sono io un anno per Natale ho messo un cartello sull'ascensore che chi vuole partecipare noi del condominio, chi vuole partecipare a una pizzata in una serata, in una pizzeria, ci troviamo tutti assieme. Quanta gente è venuta? Quanta gente è venuta? Sono venuti, dunque, c'è una persona anziana, noi siamo in nove, una persona anziana che è anziana, sono venuti in sette. Quasi tutti, l'anziano non era trasportabile. Sono venuti. Abbiamo eliminato il voi e il lei, ci siamo dati del tu. Ancora qualcuno e... si dava del voi, dei voi, fra di voi, sì. Sì. Sei gente di una certa età, è chiaro. Quindi adesso siete riusciti, adesso che siete tutti amici, cosa fate dopo la pizzata? Dopo la pizzata ci incontriamo in cortile, ci scambiamo i piatti nuovi. Come, tu non hai mai mangiato questo piatto? La prima volta che lo faccio te lo faccio assaggiare. Incontriamo, ci sono dei ragazzi, dei giovani che al mattino mi portano il cornetto caldo. È riuscito a trasformare in una zona di felicità il suo condominio. Vede, forse basta la buona volontà. Un condominiarel, si direi quasi, un condominio gestito da un morel. Complimenti Silvio, grazie. Francesca, buongiorno. Buongiorno, la signora di Napoli di prima mi ha fatto ricordare una cosa che mi fa sempre sorridere ripensandoci, del fatto del prima c'era il cortile che magari poteva essere la cassa di risonanza delle persone, avevamo dei vicini in via Livorno, oltretutto persone, cioè lui era generale, molto anziani, però molto molto molto tirchi evidentemente, e allora si sentiva sempre la solita cosa che ci faceva morire risate, me cara vai a tagliare l'arrosto? E lei sì, andava in cucina, voleva dire che doveva fare, metteva le uova magari a friggere, le portava e sentiva questo odore di uova così. Ah, per fare gli spocchiosi con i vicini, sì, taglia sì, l'arrosto. Sì, e c'era questa cassa di risonanza sia olfattiva che acustica, però, quello era il problema, che si sentiva bene che diceva dell'arrosto, ma si sentiva anche dopo che friggeva le uova. Che faceva l'ovetto al tegamino. Quello erano il vecchio Facebook, forse. Cosa, devono simulare di mangiare l'arrosto come uno status che non c'era. Non c'era perché i soldi li mettevano tutti quanti a pizzo, perché un colonnello insomma guadagnava. Penso. E poi cosa hanno fatto i soldi? Il funerale, cosa ci sono fatti? Beh, i figli erano molto contenti, devo dire. Vabbè, erano economi per è una cosa giusta che dobbiamo fare tutti noi genitori, mettere a pizzo per oddio, i figli, fino a un certo punto. Patenti. Assolutamente no, sì. Era una battuta di... Si vive una volta sola, i figli poi si... No, si vive tutti i giorni. giorni, si muore una volta sola. Sì, e vabbè, ho capito, ma se devo mangiare l'ovetto bene. Fritto perché fa finta di mangiare l'arrosto. Per mio figlio, bene. Uno gli dà l'anima ai figli. I figli gli insegna a crescere, a zappare per fare il grano. Però siete un pubblico strano. Io ero partito una trasmissione crudele sull'incomunicabilità. In realtà riviene fuori soltanto la vecchia nostalgia dei bei tempi che furono. Ma sta bene anche questo. Carlo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Senti, io porto la mia tragica testimonianza. Finalmente. E finalmente, no, ma adesso... No, sembra che viviamo tutti nel paese dei balocchi. No, senta la mia. Io ho 26 anni, un paio di mesi fa... Ah, lei è un giovane? Sì. No, lo dica, perché no, sono felice. Ogni volta che arpiono un giovane per caso, con la fiocina lo tengo bene stretto. Dica lei, mi dica. Purtroppo un paio di mesi fa sono finito dritto dallo psichiatra, con un esaurimento nervoso. Vabbè, prima di andare dallo psichiatra, però poteva provvedere. Cosa è successo? Ascolti, i vicini del piano di sopra mi hanno tormentato. Io, tra l'altro, ho anche venduto casa per allontanarmi da solo. Ho accettato la prima offerta che è arrivata, un po' sotto il valore di mercato, perché non ne potevo pur più. Pur di scappare. Sì. E mi hanno trascinato nello studio dello psichiatra. Adesso capisco che per lei è una cosa che le arreca dolore, ma ci dia l'idea di in cosa consisteva questo tormento, che ancora non abbiamo capito. Allora, famiglia, marito, moglie, bambina e cane. Io da quando ho osato lamentarmi una volta del frastuono, del fracasso della bambina, che il pomeriggio invitava altre bambine, ma ho osato, insomma, giusto perché mi facevano tremare i soprammobili con i piedini, correva da un capo all'altro della casa e mi tremavano i soprammobili. Io ho osato, insomma, fare presente la situazione. Ecco, io credo che da quel momento io abbia firmato la mia condanna. Perché cosa è successo? Qual è stata la reazione? Si sono offesi e da quel momento è iniziato un tormento, trascinamento. Lei mica l'avrà detto con la bimba minchia di vostra figlia con i suoi amichetti infami, gli azzoppo le gambine se sento ancora quel casino, mica gli ha detto così, gli avrà detto la gentile cara bambina probabilmente nella sua garrula spensieratezza arreca un lieve fastidio ai miei timpani, avrà detto questo, penso. Più o meno, a me che cercavo di studiare, insomma, si immagini io. E loro cosa hanno? Se avesse colpiti al cuore. Sì, penso proprio di sì. Quindi hanno iniziato a trascinare sedie, mobili, poltrone, divani, a qualunque ora. Ah, una ritorsione, quindi hanno messo in atto una ritorsione. Sì, è iniziata una faida. Poi oggetti che cadevano, monetine, apposta, scarpe, terribile. Posate, con una frequenza che io, insomma... ritengo impossibile che sia casuale. Cioè si sono impegnati per distruggergli l'anima. Sì, poi televisione e radio no, quello no, perché probabilmente erano uditi anche da altri, mentre se un oggetto cade sopra il mio soffitto lo sento. Ma non ha tentato una negoziazione, visto che lei è uno studente, salito, ho capito che mi state facendo la guerra psicologica, sediamoci a un tavolo e stabiliamo i termini della resa, almeno provarci. Sì. Ho provato, è successo che per un paio di settimane, in effetti, dopo questo mio tentativo di conciliazione, si è ristabilita una quiete. Poi, non lo so, forse qualche incomprensione, qualche rumore magari da me male interpretato oppure da loro, ed è ripartito. Perché lei aveva emesso anche lei dei rumori molesti? Beh, sì, in effetti, insomma, una casa che lasciava passare dei rumori. Sai, quando si crea una situazione del genere, poi magari si... Basta pochissimo, sì. Esatto, basta pochissimo, quindi devono aver interpretato male qualche mio rumore, magari mi è caduto qualcosa, insomma. Magari... Ma lei mette musica ad alto volume? No, non l'ho mai fatto, no. Ha compagne di studio che emettono singulti particolarmente rumorosi? No, preferisco studiare da solo. Non lo so, qualunque rumore poi a quel punto... Cioè uno studente solitario sarebbe il vicino ideale, sta sempre sui libri e studia, non dice nulla. La cosa migliore era. Vabbè, comunque ha cambiato casa. È la data vinta a quella famiglia, lo per so. Forza. Io ho stimato che, insomma, tra psichiatri e fegato che... Ma lo psichiatra cosa può dirle in questo caso? Non so, io con pieno rispetto della psichiatria, ma che le può dire lo psichiatra? Beh, intanto mi dà una terapia che mi calma, insomma, mi dà... Sì, ma se lei va dal bottigliaro sotto casa, compra due tappi, se le mette nelle orecchie... Ho provato, ma mi danno fastidio. A parte che non sentivo la sveglia poi, ad esempio, la mattina quando li mettevo. E poteva fare una sveglia elettrificata con un elettrodo all'alluce. Insomma, troppo complicato. peccato. E beh, risparmiava soldi con lo psichiatra, davo dei consigli pratici. Comunque, beh, sono contento che almeno questo ha favorito, diciamo, l'introito mensile di uno psichiatra che ha trovato un paziente che ha dei vicini molesti, che in realtà stava facendo un cammino a ritroso nella sua vita interiore per capire i motivi per cui lei si è scelto proprio questi vicini che le danno così tanto fastidio. A tra poco, 800 24 00 24. Quante cose si scoprono semplicemente chiedendo cosa ne pensate dei vostri vicini. Melog, cronache meridiane. Io vorrei vedere morto il mio vicino di casa. È un rompiballe, ha una voce che sembra un energumeno. Oppure tagliare solo la lingua. Tagliare in due la lingua, come i serpenti. Se possibile, se puoi eliminare il cane davanti a casa mia che abbaia sempre e il neonato della mia vicina di casa. Grazie. Vorrei far fuori il mio vicino di casa. Ha un vocione che è un cavernicolo. Però l'unico problema è quando gli tagli la testa. Ho paura che questo vada avanti a parlare. Voletevi bene, questi sono frammenti che appartengono ad altre epoche, oggi è, ahimè, molto più sottile e molto meno eroica la tensione fra vicini. Stiamo parlando questa mattina di un sondaggio che è stato fatto sugli italiani, viene fuori che in realtà c'è una pochissima volontà di sopportare i propri vicini, proprio non vorrebbe vederli. Più facile magari incontrarsi su dei gruppi di Facebook con persone che abitano nel nostro quartiere, scambiarsi impressioni, ma quando si incontrano per le scale o nell'ascensore si fa finta di chattare sul telefono, perché proprio parlarci non c'è proprio voglia. Vito, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, auguri cioè per la trasmissione, la seguo sempre per la sua anche professionalità. Grazie, presenterò anche alla sua signora. Io le porto la mia esperienza, ecco, del tutto negativa, e io penso che una buona percentuale si dovrebbe fare praticamente con un corso di educazione civica, perché non ci si sopporta più assolutissimamente. Io non so, abitavo in terzo piano, al quarto piano c'è, abito una famiglia con due bambine, e mi ricollego al discorso, alla precedente telefonata, che i bambini praticamente, ecco, non avanti, indietro, e uno arriva a casa stanco dal lavoro e si deve vedere, appunto, sentire questi bambini. Perché secondo lei non c'è la buona abitudine di andare scalzi dentro casa? Che è una cosa anche igienica, io ho questa fissazione che le scarpe si tolgono appena uno entra a casa. Se i bambini andassero con i loro piedini calzati soltanto da dei calzerottini farebbero meno casino, no? Ci vorrebbe, signori Nicoletti, ci vorrebbe rispetto, un po' più di rispetto verso gli altri, solo quello ci vorrebbe. Sa che cosa mi ha risposto? Che i suoi figli a casa sua fanno quello che vogliono. Eh beh, fino a un certo punto, perché... Io ho cambiato casa, Nicoletti. Non io ho cambiato casa. No, onestamente, Vito, ci sono persone con cui è impossibile ragionare. Sono talmente lontani dai nostri schemi che è impossibile ragionare. Che uno se ne fa veramente una malattia, come il povero studente di 10 minuti fa che è andato dallo psichiatra. Esiste un'incompatibilità. Io non ci sono andato, non ci sono arrivato a questo. Però ecco, non sentirmi dire che i suoi figli a casa possono fare quello che vogliono, non mi sta bene. Uno dei motivi è la difesa del sacrosanto frutto dei propri benedetti lombi, cioè i bambini vanno lasciati in pace. Cioè, tutti abbiamo avuto bambini, i bambini si sa, comunque è una percentuale di casino superiore rispetto a una coppia di anziani. Però vanno anche gestiti i bambini. I bambini che fanno casino vuol dire che hanno i genitori che sono bimbo minchia, peggio dei loro figli, quello è il problema. Marina, buongiorno. Buongiorno. Io posso dire che ho due tipi di esperienze. Nella mia parte, quando ero più giovane, abitavo in un palazzo dove si stava veramente bene. Addirittura c'era una terrazza e la sera cenevamo tutti fuori, ognuno nella sua terrazzina, e si parlava. Ora invece sono da sola, ho 73 anni, abito in un condominio, i miei figli abitano lontani. Io ancora mi muovo con facilità, però sotto casa mia c'è una persona che mi sta rendendo la vita impossibile. Sotto, al piano di sotto? Sì. E cosa perché? Le fa? Cosa perché le fa? No, perché mi disturba in continuazione, che io ho i tacchi, a 73 anni scarpe con i tacchi, non ne porto più. E mi dice che io cammino, ho detto signora, certo io non posso volare. Ma lei cammina con le scarpe dentro casa? No, è la prima cosa che faccio per mia comodità. Intanto anche quando ho le scarpe, Una domanda personale, ha dei piedi zoccoluti come, ne so, come un demonio, non lo so, lo domando. No, purtroppo no. È la signora che non va bene. Tanto che sono arrivata al punto che molto probabilmente le farò una denuncia per molestia. Questa le dice continuamente, lei cammina con i tacchi, ma perché non la porta a casa e fa vedere il suo la sua scarpiera che è piena soltanto di scarpe di Fonseca, ragione, quelle lì con l'imbottitura? Non ragiona. Io ho comprato anche le cuffie, però certe volte, per poco tempo, io apro la televisione a un volume basso. A un volume basso cosa significa? Che io sento appena, ma non sono sorda. E lei col bastone, pum! Lo so, è una tipica follia, purtroppo quando capita, succede a tutti. In una mia vita precedente successe anche a me qualcosa del genere, dei vicini ossessionati con lo stillicidio dell'acqua, poi una volta fecero dei lavori in casa, fu un paradosso, fu una scena, sfondarono gli operai tutto il pavimento del bagno, c'era la vicina sotto nel bagno di sotto, fu una sorta di profezia autoavverrata, ma accadono queste cose. Marco, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti. Premesso che anch'io appena entro in casa scarpe e giubbotto, non necessariamente in quest'ordine ma vanno levate. Volevo portare a sorridere anche voi sulla mia questione, in quanto abito in un cortile borderline centro storico, un posto di corte come quelli dove sono cresciuto con la nonna. E quindi? E quindi il contrario di come mi avevano abituato la nonna e le vicine, che erano un po' come i legnanesi. Si amavano, si odiavano, ma era sempre tutto uno stare insieme. E adesso che succede? C'è un secondo per dirlo, sennò la sigla, faccia lei. Esco di casa dalla porta posteriore che c'è il box e mi trovo le macchine dei vicini davanti che le lasciano, diciamo, sulle fuori dal loro cancello, e quando gli sollevo qui l'interrogativo di non sprecare spazio davanti, così mi resta libera la porta, che succede? Mi viene risposto che la mia porta è piccola, non è a norma, non dovrebbe stare lì. Allora dovrebbe, le cose su due, o si segano le corna o si allarga la porta. Questa è una massima che usa le mie contrade. La trasmissione è finita, alla prossima.